gire vai e non frenare mai, gira e gira e vai e non fermarti mai. Mettiti il casco e salta sul go-kart e vai go-go-go-go-kart e ballerai il twist e go-kart, twist go-kart, twist and twist go-kart. Non devi mai frenare sul go-kart, ma solo andare andare go-go-kart e poi ballare il twist e go-kart, twist go-kart, twist and twist go-kart. La sola cosa che devi fare è di girare e di accelerare e di gridare e ballare il twist del go-kart, go-kart. Mettiti il casco e salta sul go-kart e vai e vai go-go-go-kart e ballerai il twist del go-kart, twist go-kart, twist and twist go-kart. E gira e gira e vai e non frenare mai, e gira e gira e vai e non fermarti mai. Mettiti il casco e salta su go-kart e vai go-go-go-go-kart e ballerai il twist del go-kart, twist go-kart, twist and twist go-kart. E gira e gira e vai e non frenare mai, e gira e gira e vai e non fermarti mai. Ed ecco il twist, ed ecco il twist, ed ecco il twist del go-kart.